Signorina Arianna Efron, mi scusi. Lei e io non ci conosciamo. Io sono Anna Akhmatova. Mi ascolti. Volevo dirle che io ho conosciuto sua madre Marina Svetaeva. Ascolti bene. So che esiste la leggenda che si sia suicidata in un momento di depressione spirituale. Ma lei non deve crederci. L'ha uccisa l'epoca, come ha ucciso tutti noi. Ha ucciso me. Noi eravamo sani. Era la pazzia a circondarci. Arresti, fucilazioni, sospetti, sfiducia di tutti e verso tutto. Arresti, fucilazioni, sospetti. Noi non eravamo pazzi. Noi eravamo soltanto poeti. Ammirate i miei campi natali, ciò che è stato di me. L'abisso ha inghiottito i miei cari, è distrutta la casa degli avi. Tornata! Sono la prima donna poeta, mi sentite? Un secondo Pushkin. Ecco quello che merito. Ecco quello che otterrò dalla vita. Ho viaggiato tanto. La vita è come una stazione. E presto partirò. Però non so per dove. La mia immaginazione corre sempre avanti. Apro fiori non ancora sbocciati e tocco bruscamente il più tenero. Lo faccio senza volerlo, ma non riesco a non farlo. La vita per me comincia ad aver senso, ad acquistare significato e peso, solo trasfigurata, e cioè nell'arte. Se mi prendessero al di là dell'oceano, in paradiso, e mi impedissero di scrivere, io rinuncerei all'oceano e al paradiso. Preferirei l'inferno pur di essere me stessa. Non c'è niente di reale per cui valga la pena battersi o morire. L'utilità, che volgarità. Io amo. Amo alla follia le parole, il loro suono, la loro forza. La parola è tutto. Per una parola è morto nel fuoco Giordano Bruno e tanti altri sono morti per lo spazio e il suono della parola libertà. Libertà, come suona bene. Non farò mai parte di nessun movimento letterario. Io sono libera e senza costrizione, in tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Vera, ti sei ricordata di me? Sì, domani andrò a leggere le mie poesie. È in un posto dove sono quelli che ti arrestano. Ma io ho diritto di dire quello che a me piace, quello che amo. E così ho anche un vestito decente. Grazie, Vera. Scusate, è permesso? Con la mano sul cuore, non sono una grandama, una ribelle di mente e di viscere. Più in alto delle torri vola la cuffietta, ma oltre la corona cesellata sul capo dell'idolo, verso le stelle. Sì, lei che dice che noi poetesse non sappiamo parlare solo di merletti e d'amore. Ascolti questa mia poesia. Va bene. Sì, va bene, scendo. Non si preoccupi. Scendo. La verità non si può mai dire. Parola. La parola libertà. Non si può dire. Non si può dire, non si può dire da nessuna parte in questo mondo. C'è un posto dove si può dire libertà? Le tue vittorie non sono le mie. Vittorie diverse io vedo in sogno. Siamo a due capi della Terra, su due pianeti, amanti di diverse stelle. Perché dunque getto un ponte con mano audace? E saremmo giudicati, sappilo, con lo stesso metro. E per ambedue ci sarà il paradiso in cui io credo. Tu non mi caccerai via in nessun posto. Non si respinge la primavera. Tu non mi toccherai nemmeno con un dito. Troppo teneramente canto verso il sonno. Tu non mi diffamerai. Il mio nome è acqua per le labbra. Tu non mi lascerai. La porta è aperta e la mia casa è vuota. E la mia casa è vuota. Marina? Marina? Marina, vieni a suonare il piano. I segni musicali sembrano un usignolo che volano dal ramo sui tasti del pianoforte. E il pianoforte è un ippopotamo. È il metronomo, una bara in cui vive la morte immortale, già morta. E le poesie non osano e non desiderano porre domanda. Come un tenero buffone dalle sue difformità crudele, io parlo della mia orfanile solitudine, tra i fischi dei cretini e le risate dei filisteli, sola tra tutti, per tutti e contro tutti sto. E il volo mi impietrisce e mando questo altro richiamo nei cieli vuoti e l'incendio nel mio petto è pegno che un Carlo sentirà il mio corno. Lo so che mi evitate e dite di me che sono una traditrice, altri che la mia poesia è volgare. Vedete? Nelle mie mani anche l'oro è latta e la farina segatura. Non ho paura della fame e nemmeno del freddo. Ho paura di dipendere dagli altri. Per voi a Mosca le scarpe rotto sono simbolo di disgrazia o di eroismo. In Occidente le scarpe rotte, infamia. Meglio non partire. Mi prenderanno per una mendicante e mi costringeranno a tornare indietro. Allora mi impiccherò. Non prenderò pastiglie. Mi fanno schifo. Buttarmi dall'alto mi fa orrore. Annegarmi? Non voglio spaventare nessuno da morta. Mi impiccherò. Io amo la posizione verticale, star su in verticale. Il mare orizzontale, come l'amore. Io non voglio stare giù ad aspettare cosa mi farà il mare. Sei un poeta? No. Pubblicare? No. Censura? Sì. Pubblicare? No. Censura? Sì. Adesso i politici fanno i redattori e il potere decide per i poeti, per l'arte e le puttane. Tutto questo fa ridere se non fosse così triste. Quando io scrivo, sono libera. Io non ho più bisogno di nessuno. Però è difficile. Prima o poi ci rimetterò la pelle. Ho bisogno di soldi per i miei bambini e sono scandalosamente sola. Se non traduco, muoio di fame. Allora traduco, traduco, traduco i bielorussi, gli ebrei, i russi, i francesi, i polacchi, i russi, i francesi, i russi. Adesso cosa mi darete? Quanti altri volumi? E io, Marina, non sono un poeta? Chi traduce Marina? Mia soffitta palazzo, mio castello soffitta. Qui tengo i manoscritti. Salite! Tanto io non vi lascio entrare a casa mia. Salite, salite, venite! Io non vi lascio entrare in casa mia. Vera. Io non ho futuro. Non ho nessun tipo di volontà. Ho paura di tutto. Credo che per me sia meglio morire. Se Sergei è morto, comunque non riuscirò a vivere. Perché prolungare la tortura se si può non torturarsi? Sergei mi ha lasciata per per seguire l'armata bianca. Seriosa. L'amore è carne e sangue, fiori innaffiato dallo stesso sangue. Voi credete che l'amore sia discorrere davanti a un tavolino? Un'oretta e poi a casa? Come quei signori e quelle dame. L'amore vuol dire un tempio. L'amore vuol dire legame. Per noi tutto è separato. Le bocche e le vite. Te l'avevo pur chiesto. Non dare il malocchio. In quell'ora segreta, vicina. Io non volevo questo. Volere fare del nostro corpo come noi, uno per l'altra. Siamo anime d'ora in avanti. E non ha parlato. Sì. Nell'ora in cui il treno è di partenza, alle donne come un boccale, il tristo onore dell'esodo voi affidate, che sia un delirio? Hai frainteso? Bugiardo cortese, che alla sua bella come un mazzo di fiore il sanguinoso onore della rottura affida. Chiaramente, sillaba dopo sillaba, dunque, diciamoci addio, avete detto. Come un fazzoletto, nell'ora della deliziosa indecenza lasciato cadere. Volere, questo è a far loro. Mentre noi, l'uno per l'altra, siamo ombre d'ora in poi. Se Dio ti lascia in vita, giuro che ti seguirò dovunque, come un cagnolino. Ti amo. Marina. Mi chiamo Marina. Seno di donna, immobile sospiro dell'anima, essenza della donna. Subito il mio cuore disse, cara, ti perdonai alla cieca tutto, senza sapere nulla, neanche il tuo nome. Amami, amami, amami. Vedo dalla piega delle labbra, dall'aggetto delle sopracciglia, questo cuore va preso d'assalto. Parando coi versi ogni accento, di scherno a te, al mondo svelo, tutto quanto in te per noi si prepara, sconosciuta dalla fronte di Beethoven. Questa sera ho conosciuto una donna poeta, anzi, né donna né ragazzo, è qualcosa di più forte di me. Sonia. Sonia mi ama molto e anch'io l'amo e non riuscirò a lasciarla. Nella mia vita non avevo mai avuto un appagamento sessuale e sensuale più di questo rapporto. Non vi posso spiegare perché non si può spiegare. Sergei, li scrivo ogni giorno. È nel mio cuore, però provo una grande pesantezza. Non riesco a far male, ma non riesco a non farlo. Dopo una serata non terrestre, Sonia non è venuta con me. Ha preferito rimanere a casa. Aveva l'emicrania, ha detto. Sonia, chi è questa donna? Di notte potevo chiamarti luce febbrile, luce insonne, luce dei miei occhi nelle notti che furono. Non per turbarti son venuta. Addio. Bacerò solo l'orlo della tua veste e ti guarderò occhi negli occhi che baciano nelle notti che furono. Verrà il giorno in cui morirò e il giorno in cui morirai. Verrà il giorno in cui capirò, il giorno in cui capirai il tempo senza ritorno che fu. Io diffido dall'aspetto fisico, carnale. Diffido sempre. Nell'amore cerco un'aura romantica e la coscienza di un intenso bisogno reciproco. Non mi serve l'amore, mi serve la comprensione. Io so che posso amare solo la persona che in una giornata di primavera a me preferirà una betulla. Ti prenderei se potessi. Nel grembo della caverna, spelonca di drago, tana di pantera, in zampe vellutate di pantera. Ti prenderei se potessi. Nel grembo della caverna, spelonca di drago, tana di pantera, in zampe vellutate di pantera. Ti prenderei se potessi, nel seno della natura, nel pieno, sfilerei la mia pelle di pantera e ti darei alla caverna, a lezioni di torrenti, rovi, edera, foglie, aghiformi, dove nel buio, nel caos e nel sonno rami si intrecciano in matrimoni eterni, dove nel tiglio, nell'erba e nella pietra mani si intrecciano in comunioni estremi. Nella caverna senza luce, senza traccia, tra fogli nel caprifoglio, con un manto, né bianco mondo, né pane nero, tra fogli e rugiada come a casa, perché nessuno bussi alla porta e non ci sia chiasso per strada, perché in avvenire non ci sia la fine. Caverna e grotta e poco. Se lo potessi, ti prenderei nel mio ventre, lo farei se potessi. Mia figlia Irina è morta di stenti in un orfanotrofio. La colpa è mia. Sono persa. Vivo in un mondo tremendo come un automa. La legna per la stufa, comprare carote, bruciare la scala per fare il fuoco, tradurre. E poi i pacchi da spedire al lager per Arianna e Seriosa. Arianna, Irina, con entrambe serrate con furia quanto potevo. La più piccola non l'ho saputa custodire, luminoso, sul collo, sottile, sullo stelo, un soffione. Ancora mi è difficile capire che la mia bambina è nella terra. Perché per la mia famiglia un destino come questo? Una sorte russa. L'altra mia figlia, Arianna, l'ho chiamata così per il romanticismo e l'orgoglio altero che governano la mia vita. Arianna è un nome che comporta responsabilità. Lei, dovunque si trova, sarà la nostra testimone eterna. Lei tenderà il gomitolo di filo per trovare la strada del labirinto. Resisti. Ti invierò tutto quello che ti serve. I pacchi sono pronti. Penserò ad ogni cosa che ti manca. Ma cerca di non farle arrabbiare. Lo so, il lager non è per tutti, ma tu sei forte, lo so. Sopravviverai a tutto. Il tuo nome è Arianna, la più forte e romantica di tutta l'antichità. Ieri hanno accettato il pacco di papà. Vuol dire che è ancora vivo. Bisogna avere speranza in questa sorte. Arianna, ascolta. Sarai innocente, fine, deliziosa e a tutti quanti è strana. Sarai amazzone attraente, irruente dama. Molti trafiggerai, zarrina, col tuo beffardo scettro. E tutto quanto io solo sogno, tu lo avrai ai tuoi piedi. La mamma starà sempre con te. Non ti mancherà nulla. Resisti. Venderò la mia pelliccia e ti spedirò le mie scarpe e ti spedirò dell'argento e tutto, non ti mancherà nulla. Le mie poesie. Ti darò le mie poesie. Dobbiamo lasciare Mosca, andare chissà dove, con Mert, mio figlio, che suonava il Cremlino, i suoni delle campane, ma era diversa prima. Un destino così, domani, forse, oggi, non lo so. I miei colleghi decidono il mio destino. Nikolaj Asef, Zelinsky, Konstantin Trenev, ma per favore aiutatemi, non mi rifiutate il permesso di soggiorno per Cistopol, non mi lasciate a Elabuga, io ho diritto a sedermi nella mensa con voi, anch'io amo la Russia, sono tornata per conquistare la Russia e voi, anch'io sono un poeta, vi prego, ho bisogno di un posto in questo mondo. Anche il più povero ha uno scrittoio e quattro pareti per il silenzio. Ho bisogno di essere necessaria a qualcuno. Mert, mio figlio, Mert. Io l'ho perso da quando siamo arrivati in Russia e da quando siamo qui a Elabuga. Discutiamo sempre, non ci capiamo. Nessuno capisce di cosa ho bisogno. Perché io vorrei solo che qualcuno chiamasse il mio aiuto. E io allora, io... correrei di slancio, mi darei, io non ho bisogno di essere amata, ma d'amare. Tutto sta in che noi amiamo, tutto sta che il nostro cuore comincia a battere, anche se va in mille pezzi. Sapete quante volte il mio cuore è andato in pezzi? Tutti i miei versi sono schegge argentee nel mio cuore. Sei un poeta. Sei un poeta. Sei un parassita. Tu non servi al popolo. Sei un poeta. Tu non sarai mai un poeta. Sei un poeta. Non sei un poeta. Sei un poeta. Non sei un poeta. Sei un poeta. Sei un poeta. Sei un poeta. Sei un poeta. Come fate a dirmi che sono una spia, una traditrice? Io non sono di questa terra, di questo secolo. Io appartengo a qualcos'altro. Vado oltre la vostra carne, credetemi. Io posso leggere il vostro pensiero perché conosco la terra e voi e il cielo. Alla mia povera fragilità, guardi senza sprecar parola. Voi siete di pietra, ma io canto. Voi siete un monumento, ma io volo. Io che il più tenero omaggio all'occhio dell'eternità è nulla, ma io... sono un uccello e non incolparmi se una facile legge m'è imposta. Lo so, la lacerazione viene dalla vita, dei giorni che bisogna spezzettare, ma il cuore sa contenere tutto. Tu non sei un poeta, sei una spia, come tuo marito. Tu non sei un poeta, tu non sei un poeta, tu non sei un poeta. Sei un parassita. Tu non servi al popolo. Sei un poeta. Tu non sarai mai un poeta. Montagna nera che ha oscurato ogni lucio, è tempo, è tempo, è tempo di ridare il biglietto al creatore, mi rifiuto di esistere, nel bailame dei non uomini mi rifiuto di vivere, con i lupi delle piazze mi rifiuto di ululare, con gli squali di pianura mi rifiuto di nuotare, giù lungo la corrente delle schiene, non ho cavità auricolari né occhi profetici, al tuo mondo insensato una sola parola, rifiuto, prendete il mio corpo, io non sono speciale. La mia anima è speciale, ma la mia carne è come quella di una donna comune. Caro Mert, perdonami. Ma io non sono più necessaria a nessuno. Oggi sono un ospite celeste nel tuo paese. Ho visto gli occhi insonni nei boschi, sogni nei campi, zoccoli che scalzano l'erba. Io sono un'isolana, venuta di isole lontane. Io non ho paese, perché il mio paese è l'anima.